nei ricordi c'è, che spesso mi riporta ancora laddove i sogni e la fantasia colorano la mia avventura, laddove tu non eri più neppure un semplice ricordo, e con lo sguardo perso dentro il mare cercavo un mondo nuovo più eccitante per la mia curiosità. Ma adesso vedo in te qualcosa che non avevo conosciuto mai, forza dell'amore che si nutre solo della sua energia, e sa che un giorno riuscirò ad amarti con il tempo che mi dai, soltanto con la volontà. Tu hai cercato il tuo domani della dignità, andavi avanti senza la certezza di riavermi accanto a te. Ma adesso vedo in te una donna che non avevo conosciuto mai, la grande forza dell'amore che solo della sua energia, lo sa che un giorno riuscirò ad amarti veramente. C'è chi vuol conquistare terre e poi avere il mondo. La forza dell'amore che tu hai.